Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del dato che già ricordavano i nostri GR sulla produzione industriale italiana nel 2009, il peggior dato da quando esiste il dato, se mi permette il gioco di parole, cioè dal 1991, da quando esiste la serie statistica, meno 17,5% il crollo della produzione industriale italiana l'anno scorso. I segnali però arrivano, diciamo ormai da mesi che è importante guardare alla tendenza e non all'anno su anno, arrivano su dicembre, in cui il calo rispetto al dicembre del 2008 è stato di solo il 2%, già questo sta a significare un'uscita da questa caduta verticale. Però tutti i vari centri, dal Centro Studi Confindustria a altri centri di ricerca, a quel punto dicono: attenzione, c'è una ripresa in corso, ma incerta, fragile e quant'altro. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, dall'America arriva una dichiarazione di Ben Bernanke, quindi il numero uno della Federal Reserve, che dice: ci prepariamo a rialzare i tassi di interesse. E la frase esatta è: presto potrebbe essere possibile un rialzo dei tassi di interesse, un rialzo modesto, ma è un segnale che verrà chiaramente letto, se dovesse essere operato, che la strategia della Banca Centroamericana è di arrivare lentamente a stringere sui cordoni del credito per evitare di cadere dalla padella alla brace, cioè al rischio di bolla dovuta a un eccesso di credito, a un eccesso di liquidità. Ancora, per quello che riguarda le notizie di oggi, la borsa va bene, vanno bene tutte le borse europee, ma nel caso specifico Milano è la migliore, più 1,80%, Parigi più 0,4%, Francoforte 0,5%, Londra più 0,3%, l'America è negativa, meno 0,6%, va bene per Saipem, oggi Conti più 4,3%, ma poi la pattuglia dei bancari, fortissima, Intesa più 4,1%, Unicredit più 3,5%, Popolare Milano più 3,2%, bene anche il Banco Popolare più 2,6%, bene anche Mediaset più 2,9%, ST Microelectronics più 2,7%, Unipol più 2,3%, Telecom Italia più 2,2% come le generali, Pirelli più 1,90% come Mediobanca e Mediolanum. L'1,80% lo guadagnano Autogrill ed Exor, Impregilo più 1,6% come Campari e Fondiaria, Enel più 1,5% come l'Automatica Bulgari e Italcementi. Fiat guadagna l'1%, Ubibanca l'1,20%. Chi perde? Buzzi Unice meno 3, Prismian meno 2,90, Tenaris meno 0,6%. In assoluto il miglior titolo è Mid Industry Capital più 10,5%, bene anche RCS Media Group più 5% e De'Longhi più 4,80. Peggior titolo Cell Therapeutics meno 5,20, Landi meno 5%, risanamento meno 4,50, Yorkville meno 5,6%. Vediamo l'euro cosa sta facendo. La moneta unica è sempre intorno a quota 1,37 nei confronti del dollaro. Allora, parleremo chiaramente dei dati sulla produzione industriale italiana, delle soluzioni, ne parleremo anche nella seconda ora del programma, perché avremo ospite il presidente dell'IRI, ex presidente dell'IRI, Piero Gnudi, in qualità anche di consulente di imprese, quindi le soluzioni da adottare per un 2010 che sarà difficile sul fronte soprattutto dell'occupazione. Ancora parleremo dell'obbligazione invece che Enel si appresta a lanciare sul mercato tra meno di un mese, oggi via libera della Consob, 2 miliardi di obbligazioni Enel a tasso fisso e variabile che verranno offerte ai risparmiatori, quindi non sono per gli investitori istituzionali. E poi l'audizione di Gian Piero Fiorani, che ha tirato in ballo sulla vicenda, ricordate, della scalata dell'operazione che doveva portare poi alla BNL da un lato, Anton Venta dall'altro, e anche la gestione della Banca Popolare Italiana ex Lodi, ha tirato in ballo i vertici di tutto, di Banca d'Italia, delle altre banche e il Presidente del Consiglio. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, Parleremo anche di quanto diffuso oggi dalla Banca d'Italia, che ha scoperto, si fa per dire, che il reddito medio delle famiglie italiane tra il 2006 e il 2008 è calato in termini reali, quindi non a valore nominale, ma al netto dell'inflazione, di circa il 4%. Ed è simile a quello che si registrò nell'ultima recessione economica, quella tra il 91 e il 93. Praticamente il reddito medio familiare è di 2.679 euro al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali. Il 20% delle famiglie invece ha un reddito mensile inferiore a 1.281 euro, il 10% superiore a 4.860. E quindi il numero delle famiglie indebitate nel 2008 è salito al 27,8%, che però è un valore ancora inferiore a quello dei principali paesi industrializzati. Adesso le altre notizie in breve. Allora, alcuni di voi ci hanno fatto notare che stiamo ricordando da giorni i problemi della Toyota e dicono: volete fare un vantaggio alla Fiat? Ma figuriamoci. E comunque c'è notizia, la Toyota è stata travolta in borsa perché ha dovuto ritirare centinaia di migliaia di vetture. Oggi però, come già avete sentito, i problemi per le auto giapponesi non si fermano a Toyota. Honda ha richiamato quasi 500.000 di auto nel mondo, la maggior parte devo dire nel Nord America, per un difetto negli airbag del conducente. Non abbiamo dato il petrolio, giustamente me lo fate notare. Allora, il petrolio è a 73,4 dollari al barile, aperto in leggero calo a New York. Ancora, il deficit commerciale americano è schizzato contro ogni attesa, quindi la differenza tra quanto l'America riesce a esportare e quanto importa è peggiorata a favore delle importazioni, e quindi il deficit commerciale è salito a 40 miliardi di dollari nel mese di dicembre, dai 36 miliardi di novembre. Soprattutto ha sorpreso gli analisti, che si attendevano un deficit addirittura in calo a 35,8 miliardi. Io faccio notare che questo deficit l'America continua ad averlo nonostante un dollaro debole, perché nel mese di dicembre il dollaro viaggiava a quota 1,45-1,44 nei confronti dell'euro, e non riuscire a esportare nonostante il dollaro debole sicuramente rappresenta anche un problema per la struttura produttiva americana. Nel frattempo Barack Obama ha detto che gli stipendi, i bonus del numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, e di numero uno di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, che sono praticamente rispettivamente di 9 miliardi di milioni di dollari il primo e 17 milioni di dollari il secondo, Barack Obama ha detto: non li invidio, sono una cifra straordinaria, ma ci sono alcuni giocatori di baseball che hanno compensi anche superiori e io sono scioccato anche da quelli. Ancora le vicende europee che si chiamano da alcuni giorni Grecia, Spagna e Portogallo. Vediamo, domani ci sarà un importantissimo Consiglio europeo in cui si deciderà di quali misure attuare, quale rete di protezione attuare, perché già oggi da Parigi il segretario di Stato francese degli affari europei Pierre Lelouch ha detto: l'Unione Europea deve stare attenta perché deve agire e riuscire a imporsi se non vuole correre un rischio di retrocessione. Oggi però la borsa greca è in forte rialzo, è arrivata a guadagnare anche più del 4%, dopo che si è avuta conferma dal governo di Berlino, quindi della Germania, che Berlino sta valutando l'ipotesi di un prestito garantito alla Grecia. E poi c'è un direttivo straordinario, un consiglio direttivo straordinario della Banca Centrale Europea alle 18.30 di oggi, quindi fra un'ora e un quarto, per discutere proprio delle implicazioni della crisi fiscale e in particolar modo degli sviluppi relativi alla crisi della Grecia. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto di legge per l'individuazione dei siti nucleari, e quindi i primi lavori nei cantieri dal 2013, la produzione di energia elettrica dal nucleare dal 2020, lo ha annunciato oggi il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola. Non c'è ancora una indicazione sui siti, ha detto Scajola: rispetteremo la sicurezza e l'ambiente, però è già arrivato il primo no. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, ha detto: bella la scelta del nucleare, è una scelta valutata positivamente, ma escludiamo che la centrale possa essere in Lombardia. E a me, con tutto il rispetto per Formigoni, qua sembra di sentire il classico Nimby, not in my backyard, non nel mio giardino, perché va bene la scelta purché sia in altre regioni. Partiamo allora con il primo tema della puntata e mi riferisco al dato di oggi sulla produzione industriale italiana. Dicevamo meno 17,5 il bilancio definitivo del 2009, il dato peggiore dal 1991, ossia da quando esiste la serie storica. I settori peggiori: la meccanica meno 28%, l'auto meno 20%, elettronica meno 10%, chimica meno 13%, la farmaceutica ha fatto più 2,8%, migliore il dato invece di dicembre, come ci racconta questa scheda. Per l'industria italiana l'unica cosa buona del 2009 è che è finito. I 12 mesi appena trascorsi si sono infatti chiusi con il peggior calo della produzione da almeno il 1991. Dalle fabbriche italiane sono usciti il 17,5% di prodotti in meno rispetto al 2008, con una flessione che ha colpito tutti i settori, con l'unica eccezione della farmaceutica. Hanno pagato duramente la crisi anche le cosiddette 4A, ossia alimentare, automazione e macchinari, abbigliamento e arredamento. Un poker di comparti che costituisce la spina dorsale del Made in Italy nel mondo. In particolare, la meccanica ha archiviato il 2009 con un meno 28%. I vestiti e le calzature hanno accusato una caduta dell'11%, mentre l'alimentare ha contenuto la flessione all'1,6% rispetto al 2008. Negli altri comparti si va dal meno 29% della siderurgia al meno 10% dell'elettronica, passando per il meno 20% dell'auto e il meno 13% della chimica. L'ultimo mese del 2009 ha mostrato qualche timido segnale di miglioramento, lasciando comunque intendere che la strada verso la piena ripresa è ancora lunga e in salita. Nel complesso, la produzione è scesa di oltre il 5% rispetto al dicembre 2008, un calo deciso che segna comunque un rallentamento della caduta rispetto ai mesi precedenti. C'è anche chi è riuscito a chiudere il mese con il segno più, come l'alimentare, la farmaceutica e la chimica, ma soprattutto l'auto, protagonista di un vero e proprio boom. La produzione di quattro ruote è infatti volata con un più 85%, grazie anche alle scadenze degli incentivi e agli effetti legati al diverso calendario. Questi dati, poi ogni tanto qualche ascoltatore scrive al 349-238-6666, una riflessione che a me fa impazzire, ma insomma enfatizzate sempre i dati negativi. Allora, voglio dire, invitiamo gli ascoltatori a comunicarci i dati positivi, perché noi obiettivamente ne vediamo pochi, quando li vediamo, anzi forse li enfatizziamo quelli positivi. Se poi qua la teoria deve essere che la crisi non c'è stata, che la crisi è passeggera, che l'Italia è messa meglio di altri, vabbè, qui stiamo ragionando di politica, non più di dati e di economia. Noi riportiamo la cronaca della giornata e allora chiedo un commento oggi al direttore del CERME, mi riferisco anche che di cui è anche capo economista, professor Fabio Pammolli, buonasera. Buonasera. Allora, voi come CERM ogni mese commentate i dati congiunturali, che il CERM vuol dire è un centro studi che si occupa anche dello studio dei mercati, delle loro regolamentazioni, però insomma la cosa che più l'ha impressionata è vedere, no, sto leggendo un messaggio molto divertente che si riferisce a Barack Obama quando ha detto beh, anche i giocatori di baseball hanno stipendi, bonus imbarazzanti, milionari come i grandi banchieri, scrive un ascoltatore. Sì, però i giocatori di baseball non hanno creato una crisi mondiale. E ha ragione. Allora, l'ha impressionata di più il meno 17,5%, cioè un dato così non si vedeva dal 91 e non si poteva vedere dal 91 perché prima non esisteva neanche la serie storica, o diciamo, dobbiamo concentrarci su dicembre che, avendo fatto un meno 2 rispetto a dicembre 2008, mostra un netto rallentamento della caduta e qualche segnale di ripresa? Sono interessanti entrambi i dati, è interessante in negativo la composizione settoriale dell'andamento negativo, sia quello riferito a tutto il 2010 sia quello riferito a dicembre. Il fatto che sia la meccanica, l'elettronica e la chimica siano settori ad alta tecnologia o ad alta economia di scala a segnare il passo, anche settori caratterizzanti il modello di specializzazione italiana nei settori tra virgolette a più alta tecnologia e rilevanti per i beni intermedi e per la produzione industriale, questo mi sembra un elemento che va letto congiuntamente ai dati, alle notizie di questi giorni che segnalano un processo di deindustrializzazione, almeno riferito a grandi insediamenti di imprese internazionali, multinazionali. Questo mi pare la composizione settoriale, vorrei dire, mi pare l'elemento più preoccupante. Poi se c'è qualcuno... il fatto, ci aiuta a capire meglio, cioè il fatto che siano andati male tutti i settori classici e meninci, le 4A? No, non è tanto l'andamento delle 4A. Perché l'alimentare ha fatto meno 1,6 e voglio dire, è grasso che cola. Non mi preoccupa infatti l'andamento delle 4A, mi preoccupa l'andamento che già storicamente in alcuni settori aveva segnalato andamenti diciamo non positivi negli indicatori di produttività e di attrazione di nuovi investimenti, sto pensando alla chimica e all'elettronica. Il fatto che questi settori, che rimangono un pochino gli ultimi baluardi di una presenza italiana nei settori ad alta economia di scala e nell'alta tecnologia, stiano segnando un ulteriore rallentamento della produzione, mi sembra un fatto negativo, proprio perché va a deteriorare una specializzazione italiana già debole su questi comparti. Quindi questo, poi ci sono altri casi, quello della siderurgia, ovviamente in una situazione di eccesso di capacità produttiva a livello mondiale come quella che si è realizzata per il rallentamento della domanda su scala mondiale, è chiaro che quel dato è preoccupante, ma trova una sua spiegazione più legata agli andamenti internazionali. Sì, mi scusi professor Pamolli, venendo poi alle proposte, perché adesso è un periodo in cui iniziamo a chiedere a tutti gli ospiti anche il che fare, e poi ne parleremo anche più avanti con Piero Gnudi. Io vorrei capire una cosa, cioè le politiche industriali, termine alto ma di cui si sente molto bisogno in questo momento, proprio perché serve una regia, una cabina di regia, come si dice in gergo. In questo momento vediamo che il governo è impegnato, ne abbiamo parlato ieri con il ministro Sacconi, a contenere questo esodo, questo rischio di parziale smantellamento della base industriale del paese effettuato da multinazionali, Alcoa, Glaxo, i nomi più conosciuti, ma ci sono anche gruppi italiani, ci mancherebbe. Al di là di questa priorità, cioè contenere la caduta e fare in modo che non ci sia una fuga, quale dovrebbe essere la prossima iniziativa secondo lei? Fiscale o di un grande accordo col mondo del credito, che a questo punto è tornato a fare utili e che deve aprire ancora di più, scusatemi se insistiamo sempre, ancora di più i cordoni verso le imprese sane, non buttare i soldi verso imprese non sane? Prego. Intanto va detto che queste dinamiche, questi eventi e anche quello che rimane di alcuni insediamenti industriali, pensiamo a Termini Imerese, dopo 13 anni di nuova programmazione regionale che avrebbe dovuto condurre a magnifiche sorti e progressive Mezzogiorno, quello che rimane ci dice che dobbiamo prendere le distanze da politiche industriali fondate su trasferimenti di denaro, in particolare mi rivolgo al Mezzogiorno, ma se guardiamo anche alcuni strumenti come la 488 o alcuni veicoli come l'ex Sviluppo Italia, oggi in Vitalia, se non sbaglio la denominazione, insomma questa è una presa di distanza doverosa. E sicuramente la negoziazione di Frank dal punto di vista fiscale nel Mezzogiorno potrebbe essere uno strumento da valutare. Per quanto riguarda le nuove politiche industriali, io continuo a pensare che l'Italia si sia dimostrata incapace di gestire politiche di allevamento di campioni nazionali dell'innovazione come la Francia. Questo richiede un'infrastruttura amministrativa anche... Però Pamela, adesso non ne possiamo parlare adesso, ma insomma Eni e Finmeccanica non sono dei brutti gruppi, anzi. Assolutamente, ma quelli sono frutto di una stagione di allevamento dei campioni nazionali all'interno del sistema delle partecipazioni statali, e poi ha portato alla selezione di questi colossi che effettivamente nel tempo si sono, però sono gli ultimi tre, quelli che lei ha menzionato, rimasti, e devo dire che la replicabilità di quel modello per il futuro non mi pare praticabile. Sicuramente per il tessuto delle piccole e medie imprese lavorare su un accordo con il sistema del credito per facilitare l'accesso e per allentare le tensioni finanziarie del tessuto delle piccole imprese è un elemento che può avere una sua rilevanza. Sì, io, a mio avviso, insomma, è una mia idea, in questo momento la vera variabile è il tempo, perché un accordo si può anche arrivare, il problema è che se ci arrivi fra un anno o fra 10 mesi, il danno per larga parte è già stato fatto, quindi è proprio il tempo di risposta. Comunque grazie al professor Fabio Pamolli, che è capo economista al CERM. E adesso si è parlato chiaramente di questo dato anche a Torino, dove è in corso la Confindustria Awards for Excellence, ossia la consegna dei premi per l'eccellenza dedicati allo scomparso Andrea Pininfarina. Rientra nelle manifestazioni per i cent'anni di Confindustria, poi vi sarà quella di Bari. Chiaramente l'attesa era tutta rivolta però al presidente della Fiat Montezemolo e al ministro Scajola, che sono presenti, e anche a Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat. E allora andiamo con ordine, perché ci collegheremo adesso con Torino. Prima però una battuta del presidente della Fiat Montezemolo sul dato sulla produzione industriale. Lasciatemi dire anche la necessità, in momenti come questi, di dare un contributo ad una crisi che è vera, ad una crisi purtroppo che oggi non è solo una crisi economica. Se noi guardiamo i dati della produzione industriale del 2009, negli ultimi 20 anni non era stata così bassa, oltre il 17% in meno. Se noi guardiamo la crisi sociale, cioè di tante famiglie che stanno perdendo il lavoro, e stiamo vedendo una cifra data proprio oggi dalla Banca d'Italia del 13,4% di famiglie italiane sotto la soglia di povertà. Se guardiamo il tema del problema di tanti giovani, bene, questo ci mette di buon umore, ci dà la spinta, ci dimostra che questo è un paese verso il quale dobbiamo essere più ottimisti, è proprio questo premio dell'eccellenza. Così il presidente della Fiat Montezemolo. Dicevo, chiaro che a margine dei premiati, delle premiazioni, l'attenzione, giornalisticamente parlando, era tutta rivolta alla vicenda Fiat. Eh sì, perché insomma ieri l'abbiamo data in diretta la notizia, praticamente il ministro Scajola ha detto i prossimi incentivi non saranno per il settore auto, saranno per altri settori che non ne hanno avuti o che ne hanno ancora più bisogno. E a nessuno sfugge che questo sia l'ultimo capitolo del confronto, della dialettica, del braccio di ferro, chiamatelo come volete, tra Fiat e governo, per come Fiat ha gestito le vicende Termini Imerese, dice il governo, per gli annunci della cassa integrazione a sorpresa. La Fiat invece ha trovato un'ingerenza, mettiamola così, il tentativo politico di mantenere aperta una fabbrica in cui perde. Ma la cosa più sorprendente di questa vicenda, che a mio avviso la dice lunga anche sulle caratteristiche di Sergio Marchionne, per chi non lo conoscesse bene, è la risposta che ha dato oggi l'amministratore delegato della Fiat al ministro Scajola, che aveva annunciato nessun incentivo per l'auto. È una scelta condivisa, lo abbiamo già detto così Marchionne sul fatto di non avere incentivi da governativi. In effetti Marchionne aveva detto: tanto non si può vivere sempre di incentivi, ha detto nessun'altra fabbrica è in pericolo, nessun altro stabilimento italiano è in discussione. Allora sentiamolo al microfono del nostro Paolo Piacenza, Sergio Marchionne. Non c'è niente da aggiungere, l'abbiamo già detto, scelta condivisa. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni per trovare una soluzione ai Termini Imerese, siamo disposti ad ascoltare tutto. Non abbiamo chiuso la porta a nessuno, io non ho visto niente fino adesso. Individuiamo la scelta, capiamo le ragioni per cui è stata fatta. L'ho detto chiaramente, no? Si venderanno 350.000 vetture in meno in Italia. No? Ci dovrà stare per forza, se produciamo meno vetture in realtà è questo. Ma la gestiamo, come abbiamo scritto le altre cose. No? Io accetto quello che ha detto il ministro per quello che è, no? Non ci sono incentivi, basta. Andiamo, guardiamo al futuro, no? Lavoriamo sul mercato. Andiamo fuori dall'Italia, andiamo a lavorare dappertutto, no? Per rispondere alla domanda sua sulla Russia, non ho niente da dire fino a quando non si annuncia qualcosa di definitivo. Io credo che ci sarà, questo è un mercato che deve trovare a livelli normali, deve trovare la sua base, quindi non, tutti questi indirizzi vanno nella direzione giusta. Lasciamo lavorare i mercati. Allora, quindi insomma, Marchionne è d'accordo con Scajola, è inutile continuare a drogare, tra virgolette, il mercato, noi dobbiamo vivere con le nostre gambe, condividiamo la scelta, va nella direzione giusta, chi si immaginava già un botta e risposta al governo Fiat resta ampiamente deluso. Paolo Piacenza, come avete sentito, sta seguendo a Torino il premio, le premiazioni per gli Award of Excellence dedicati a Andrea Pininfarina. Paolo, buonasera. Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, poco fa è arrivato anche il ministro Scajola. Sì, sì, che è arrivato mezz'ora dopo Sergio Marchionne e sostanzialmente ha, come dire, siglato la pace delle parole, perché se sentite quello che dice adesso tra poco, capirete che di fatto si è trovata una quadra sostanzialmente. Possiamo sentire Scajola. Ne siamo lieti, perché non c'è dubbio che, come abbiamo confrontato con i colleghi europei, bisogna rientrare nella normalità del mercato e rinviare questa scelta fermerebbe i consumi se non fosse chiarita la posizione, perché tutti rimarrebbero in attesa, e poi perché potremmo avere difficoltà molto più grosse nel 2011 o nel secondo semestre del 2010. Ecco perché ci pare che sia più saggio rientrare celermente nella normalità del mercato, non dando incentivi al consumo dell'auto, focalizzando alcune risorse sulla innovazione e sulla ricerca nel settore dell'auto e incentivando il consumo per alcuni prodotti che hanno particolarmente sofferto e che hanno bisogno di una spinta. Pronto, allora dunque quello che ha detto di fatto Scajola poco dopo entrando al Confindustria Award for Excellence Andrea Pininfarina qui a Torino, di fatto è la riprova che si è trovata una quadra, e lo ha ribadito poco fa dal palco di Torino Emma Marcegaglia. Sostanzialmente anche la presidente di Confindustria ha messo il suo sigillo sull'intesa che si è trovata, dicendo anche a noi pare condivisibile questa soluzione per cui si facciano incentivi per altri settori industriali che oggi sono in più di maggiore difficoltà. Per la Fiat, e lo ha spiegato poi successivamente Scajola dal palco, è meglio puntare invece, per quanto riguarda l'intero settore auto, su provvedimenti più a lungo respiro che favoriscano soprattutto l'innovazione, quindi premiare innanzitutto l'innovazione. E dal palco Scajola ha anche parlato, ha anche detto che sostanzialmente la Fiat continua a essere una priorità per il governo, come lo è stato in questi anni. Possiamo sentire quello che ha detto dal palco il Ministro dello Sviluppo Economico. La Fiat, un pilastro del sistema industriale italiano, con la capacità di crescere in momenti difficili e innovando i suoi prodotti, di riuscire in un'operazione che il mondo ha visto con grande attenzione, con grande interesse, che è l'accordo con Chrysler, che è merito sicuramente del suo management, è merito dei suoi prodotti, è merito degli investimenti in innovazione, è merito dei suoi lavoratori, ma credo sia anche merito della considerazione e dell'appoggio che ha sempre avuto dai governi della Repubblica. Io credo che vada in questa occasione ancora una volta confermato che questo governo ritiene la Fiat un patrimonio fondamentale del Paese e lo ritiene un patrimonio di cui andare sicuramente fieri. Così appunto il ministro Scajola, grazie a Paolo Piacenza e collegamento con noi da Torino, dove si sta svolgendo la cerimonia per la consegna degli Awards of Excellence di Confindustria dedicati alla memoria di Andrea Pininfarina. Volete avere al 349-238-6666 ancora i dati diffusi oggi da Banca Italia. Allora, la Banca Italia, a cui faceva riferimento anche il presidente Fiat Montezemolo nel passaggio che abbiamo fatto sentire, ha certificato che tra il 2006 e il 2008 il reddito medio delle famiglie italiane al netto dell'inflazione, quindi in termini reali, è calato del 4%. Una riduzione, dice la Banca d'Italia, praticamente identica a quella che si osservò nella precedente recessione economica, quella tra il 91 e il 93. Praticamente 2.679 euro di reddito familiare medio al netto delle imposte e dei contributi, ma con un 20% delle famiglie che ha un reddito mensile inferiore ai 1.280 euro, il 10% ce l'ha invece superiore ai 4.860, sale a 20, al 28% il numero delle famiglie indebitate. Meteo, pubblicità, poi la borsa, le obbligazioni Enel e l'audizione in tribunale di Fiorani. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo adesso della borsa e poi delle obbligazioni Enel e dell'audizione di Giampiero Fiorani in tribunale a Milano. La borsa, dunque, buona la giornata soprattutto per Milano, più 2% alla fine, un bel risultato oggi, anche perché Parigi ha fatto un più 0,6 come Francoforte, Londra più 0,2, meno 0,3% il Dow Jones, e insomma migliore di tutte le altre borse di Milano. Chiedo il perché a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Livia. Buonasera. Sì, allora Milano ha beneficiato in particolare dei rialzi significativi di alcune big del listino milanese, come Intesa San Paolo, che è salita del 4,4%, Saipem più 3,9% e Unicredit più 3,7%. Ecco, Saipem ha diffuso i dati, cedola invariata, però l'utile è salito dell'1%, 55 centesimi di dividendo. Però l'utile è salito appunto dell'1%. Snam Rete Gas ha visto l'utile salire del 38% e il dividendo va a 20 centesimi di euro per azione, e Saipem fa più 3,94. Intesa San Paolo più 4,4. Sì, allora Intesa San Paolo ha beneficiato del buon andamento del comparto bancario in Europa, che ha guadagnato il 2,5%, beneficiando quindi di un generale recupero dei finanziari in vista di un miglioramento della situazione internazionale, in attesa appunto del piano europeo di salvataggi per la Grecia. Mm-hmm. Quindi la migliore sul listino, sul paniere principale a Milano, è stata Intesa San Paolo, all'indomani delle nuove nomine di Marco Morelli e Gaetano Micicchè, e seguita da Unicredit, che ha guadagnato il 3,7%. In un'intervista al Financial Times, l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, ha spiegato che la crisi potrebbe fornire al gruppo nuove opportunità di crescita, ma non tramite acquisizioni. E vedremo poi tramite quali altri sviluppi. Ancora bene, tu citavi i bancari, va detto che anche Banca Popolare ha fatto più 3,1%, la Popolare di Milano più 3%, Unipol più 2,80%, Generali più 2,70%. Un po' meno forte la crescita di altri bancari, penso a UbiBanca più 1,7, Fondiaria più 1,5 e basta, direi. Monte dei Paschi più 0,80%. Bene anche ST Microelectronics. Sì, allora, più 2,7, scusate. Sì, ST ha beneficiato dell'annuncio della cessione di Numonics a Micron Technology, un'operazione che, secondo i vertici della società, consentirà al gruppo di focalizzarsi maggiormente sul proprio business, rivolto a una minore intensità di capitale. Inoltre bisogna sottolineare che dell'annuncio di questo accordo ha beneficiato anche EMS, che è una società appartenente al resto del listino milanese, che ha registrato un rialzo dell'11,1% ed è una società attiva nel settore dei semiconduttori. Secondo gli analisti, infatti, il prossimo passo di Micron, con cui EMS ha già dei contatti, potrebbe essere l'acquisizione di alcune attività del gruppo in Asia, soprattutto in Cina. E infatti EMS è il migliore in assoluto tra i titoli oggi, più 11%, quindi chiudiamo con i migliori e peggiori, anche se titoli più sottili, come si dice in gergo. De Longhi più 4,80%, molto bene quindi oggi in borsa, bene anche la Indesit, quindi comparto del bianco, e e anche RCS, gruppo di Torre della Sera, bene più 4,95%, più 5%, in una battuta RCS, De Longhi e Indesit. Allora RCS ha beneficiato della pubblicazione dei conti 2009, che hanno mostrato ricavi in calo ma un miglioramento della posizione finanziaria netta e risparmi superiori a quanto preventivato. Per quanto riguarda invece Indesit e De Longhi, hanno beneficiato della prospettiva che il governo possa varare incentivi a sostegno del settore elettrodomestici, come appunto comunicato ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, le informazioni sul traffico e poi le obbligazioni Enel, oggi via libera della Consob, 2 miliardi di obbligazioni che arriveranno tra meno di un mese per i risparmiatori, e Fiorani che ricostruisce la sua versione della vicenda dei famosi furbetti del quartierino. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, prima di arrivare a Giampiero Fiorani, una notizia che riguarda i mercati, i risparmiatori, poi se ne occuperà anche Deborah Rosciani con Salvadanaio. Oggi è arrivato via libera dalla Consob all'Enel per poter emettere un'altra obbligazione che andrà praticamente nelle prime settimane del 2010, di marzo, scusatemi, prima settimana di marzo, 2 miliardi di euro di obbligazione, di corporate bond come si chiama, in un periodo in cui già dai nostri calcoli risulta che sono state messe nei primi mesi dell'anno 6-7 miliardi di obbligazioni dalle società, ma soprattutto nel 2009 si è toccato il record in Italia, ossia 34 miliardi di euro di obbligazioni emesse dalle società, quindi di prestiti richiesti dalle società che hanno anche ottimi voti, ottimi rating, superando così 21 miliardi che appartenevano al 2001, l'anno, lo dico senza portare nessun tipo di sfortuna, dello scoppio del crack Cirio e Parmalat. E allora, obbligazioni che, per i risparmiatori, con del rendimento sia fisso che variabile. Ne parliamo con il direttore dell'amministrazione finanziaria e controllo dell'Enel, Luigi Ferraris. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, ci chiarisce il fatto che possono essere collocate sia a tasso variabile che a tasso fisso? Nel senso che noi lasciamo la scelta al mercato, ai risparmiatori, quindi estremizzando potrebbe essere quasi tutta a tasso fisso o viceversa a tasso variabile. Come lei sa, in questi giorni ci sono diverse scuole di pensiero su quella che può essere l'evoluzione dei tassi nei prossimi mesi e anni. Noi, offrendo con estrema trasparenza e semplicità un prodotto come questo, lasciamo poi la scelta ai nostri investitori e ai nostri risparmiatori su quale livello di... No, mi scusi, ma per capire, dottor Ferraris, uno va in banca e chiede un taglio minimo di 2.000 euro, no? Esatto. Per cui, insomma, e decide lui se la vuole a tasso fisso o tasso variabile? Esattamente così. E la differenza nei rendimenti quanto sarà? La differenza nei rendimenti, oggi se lei prende il tasso variabile, fa riferimento all'Euribor a 6 mesi, mentre lo spread sarà lo stesso sia nel caso del tasso fisso che del tasso variabile. La differenza sarà quindi tra la durata, cioè il tasso fisso presuppone un livello di tasso più elevato, ma fermo, che non si muoverà nell'ipotesi di aumento dei tassi, e viceversa l'Euribor seguirà le condizioni del mercato. La scadenza, ci chiedono gli ascoltatori, è per tutti e due i titoli di 6 anni? Esattamente così, sì. Quindi al 2016. Ed è previsto comunque il rimborso totale del capitale alla scadenza? Sì, esattamente, alla scadenza sarà il rimborso totale del capitale sottostante. Quindi, insomma, la differenza in percentuale tra quanto potrebbe rendere quella a tasso fisso e quella a tasso variabile non ce lo vuole dire? No, direi che è fattuale. Se lo spread è lo stesso, lei può prendere tranquillamente o un risparmiatore può chiedere in banca quanto è l'Euribor a 6 mesi e quanto è il tasso mid-swap a 6 anni. Evidentemente in questo momento la differenza tra i due, certo, vado a memoria, è nell'ordine del 2%. Per cui oggi in questo momento potrebbe esserci una differenza di quell'ordine di grandezza, visto che lo spread sarà uguale. Un'ultima domanda, perché vorrei capire una cosa. Citavamo i dati, un record di emissioni obbligazionarie di gruppi nel 2009. Temete che vi possa essere, per essere buoni, un sovraffollamento, quindi un eccesso di offerte di obbligazioni, visto che anche poi gli stati offriranno moltissime obbligazioni per finanziare i debiti accumulati l'anno scorso per salvare la finanza, i gruppi finanziari, e soprattutto cosa ve ne farete di questi 2 miliardi di obbligazioni? Non ci aspettiamo un rischio di overlapping, nel senso che noi ci rivolgiamo a un mercato retail di piccoli risparmiatori per il quale, così da sondaggi preliminari, ci aspettiamo una buona risposta. Quindi credo che questo rischio non sussista, in quanto comunque la liquidità nel sistema c'è e c'è in abbondanza, e quindi c'è soprattutto ricerca di investimenti con un buon rendimento e soprattutto solidi, con quindi un livello di solidità dell'emittente di primaria fascia. E per quanto riguarda l'utilizzo che noi andremo a fare del ricavato dal collocamento di questi bond, prima di tutto non andrà a aumentare l'indebitamento, ma andrà semplicemente a ristrutturare il nostro debito sostituendo debito bancario con debito obbligazionario. Grazie, e poi vedremo appunto i dettagli del collocamento quando arriverà nelle banche tra il 15 e il 26 febbraio di chiaramente quest'anno. Grazie a Luigi Ferraris, direttore amministrazione finanza e controllo dell'Enel. Grazie, buonasera. E adesso, come ha annunciato Fiorani al Tribunale di Milano, vedo che alcuni ascoltatori mi scrivono, mi correggono, forse all'inizio abbiamo detto 15 marzo, chiaramente come abbiamo appena ridetto è 15-26 febbraio, non marzo, l'obbligazione Enel, ma dicevo Fiorani. E come dimenticare quella stagione dei furbetti del quartierino, Ricucci, Fiorani, quant'altro, le doppie operazioni, anzi triple, Rizzoli, Corriere della Sera da una parte, Biennale dall'altra e Anton Veneta. Oggi Fiorani è in Tribunale a Milano per parlare della scalata propria ad Anton Veneta. Visto che già è stato condannato per le vicende che riguardavano così gli incrementi delle spese di commissione alla Popolare Italiana, ex Popolare di Lodi, addirittura che anche i correntisti morti venissero prelevati dei soldi, oggi si è parlato appunto al Tribunale di Milano della scalata ad Anton Veneta. Ha seguito L'audizione di Giampiero Fiorani, la nostra Raffaella Calandra, che è in collegamento al Palazzo Giustizia. Buonasera Raffaella. Buonasera Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, ha tirato in ballo un po' tutto, adesso non riusciamo a farlo, lo faremo sentire poi nella seconda ora del programma, ma intanto ha citato un po' tutti Fiorani nel ricordare chi era d'accordo con quel progetto. Se ho ben letto, il presidente della Consob, che è tuttora presidente della Consob, il governatore della Banca d'Italia di allora, che è Fazio, che era Fazio, e anche il presidente del consiglio attuale. Allora, Giampiero Fiorani ha ricostruito quella che lui ha definito questa sua battaglia finanziaria partendo da un punto. Io ero convinto di avere con me il sistema paese era al mio fianco. Questa è la linea difensiva di Fiorani che ha portato avanti per tutte le 6 ore di questa udienza, che non è neanche finita, citando appunto questi 3 nomi come i principali, diciamo, i referenti istituzionali. L'elemento più nuovo è quello soprattutto di un incontro con l'allora e attuale presidente della Consob, ossia Lamberto Cardia, di un incontro avvenuto in un salottino privato della sede Consob quando appunto alla Consob era già arrivato l'esposto degli olandesi dell'ABN AMRO. In quella occasione, secondo la ricostruzione di Fiorani, ovviamente tutta da riscontrare, avrebbe avuto modo di parlare esplicitamente con il presidente della Consob dei progetti in corso e quindi anche di quella linea un po' borderline su cui si stavano muovendo. Altro discorso quello di Banca Italia, il governatore, l'ex governatore di Banca Italia è tra gli imputati di questo processo per aggiotaggio e ovviamente nella prossima occasione ci sarà il controesame da parte dei suoi difensori, perché il governatore, l'ex governatore, è stato particolarmente chiamato in causa in quanto Fiorani dice era il mio generale, era quello che ripeteva che lo straniero non passerà, e questo un po', secondo la sua linea difensiva, è stato il punto di riferimento della sua azione. Quanto al Presidente del Consiglio che tu citavi, è un riferimento ad un episodio già noto in cui, quando il progetto era ancora in fieri, Fiorani va con il senatore Grillo a casa di Berlusconi in Sardegna, e in quell'occasione gli porta anche un dépliant, diciamo, del suo progetto di espansione della Popolare di Lodi, fatto con i colori di Forza Italia, così in una forma, diciamo così, di tentativo di captatio benevolenza. Allora Raffaella, tu torna a seguire l'audizione che, come ricordavi, è ancora in corso. Noi faremo ascoltare un pezzetto di quanto ha detto Fiorani, visto che tu ce l'hai fatto avere dopo il GR, e alcuni ci chiedono di poter riascoltare una famosa intervista che facemmo al senatore Grillo, appunto vicinissimo al governatore Fazio. Parliamo di 3-4 anni, 4 anni fa. Beh, vediamo se la recuperiamo domani. Grazie intanto Raffaella Calandra, il GR. :18 allora, visto che sta ancora parlando Giampiero Fiorani, abbiamo deciso di far ascoltare i passaggi più importanti del suo intervento domani, quindi avremo un approfondimento anche più esteso. Leggo due notizie invece appena battute dalle agenzie. Da un lato, sulla vicenda delle indiscrezioni di stampa tedesca che vorrebbero la il governo tedesco fortemente contrario alla candidatura di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea, è uscito un po' di tutto oggi. Poco fa il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto: non mi risulta questo veto della Germania. Sempre in tema di Germania, ma su un'altra vicenda, secondo quanto si apprende da fonti francesi vicino al presidente Sarkozy, sarebbero Francia e Germania che domani presenteranno al Consiglio europeo una serie di proposte concrete per evitare il fallimento della Grecia. Quindi un patto, un asse franco-tedesco per salvare la Grecia e, aggiungiamo noi, in prospettiva salvare anche l'euro. Delle difficoltà delle imprese e di quello che possono essere soluzioni parliamo adesso, come annunciato, con uno degli ospiti che in questo periodo chiediamo anche consigli per la loro capacità anche di fare consulenza di imprese. Mi riferisco a Piero Gnudi, che come molti sanno è anche presidente dell'Enel, ma intanto buonasera presidente. Buonasera. Lei è qui non per parlare dell'Enel, lo chiarisco subito, anche perché ne parliamo in altri casi, ma per darci la sua visione e possibilmente anche le sue soluzioni nel suo ruolo di commercialista e quindi di consulente di grandi imprese. L'hanno definita nel passato il Cuccia bolognese per l'importanza dei clienti che lei ha e anche per la conoscenza del rapporto banca-impresa, che era la grande caratteristica, diciamo, della Mediobanca di Cuccia. Io vorrei capire una prima cosa. Il dato di oggi ci riporta al 91, che è un periodo che chi ha una memoria ricordo come un anno delicatissimo, l'anno che poi portò l'uscita della lira dallo SME e una pressione fortissima su tutti i mercati. Vorrei capire se anche lei ritiene che il paragone sia corretto e se teme che, come è avvenuto in crisi passate, il vero danno sull'economia reale e sulle aziende si trasferisca a qualche anno di distanza dalla crisi finanziaria, così poi cerchiamo di capire le soluzioni possibili. Prego. Quello è così sempre stato nel passato, anche nel 29 la crisi a livello occupazionale fu nel 32, infatti nel 32 che nacque l'IRI. Di cui lei è stato presidente, dimenticavo di dire che lei è stato presidente anche dell'IRI. Ma anche nel 76 la crisi poi si è continuata fino agli anni 80. E purtroppo anche in questa crisi lo stesso scenario si ripeterà. Bisogna però dire anche che qualche segnale di ripresa c'è, sono timidi i segnali, però questo, ripeto, non risolve il problema delle aziende, perché le aziende ormai che passano arrivano a 12 mesi di crisi, fanno fatica ad andare avanti, le risorse finanziarie stanno finendo. E questo è un problema che sentiamo soprattutto in Italia, perché il nostro tessuto è un tessuto di piccole e medie imprese che ha un patrimonio netto sottile e quindi fanno più fatica a superare lunghi periodi di crisi. Il tema della sottocapitalizzazione, come si chiama in gergo, delle imprese italiane, in cui spesso il patrimonio, il capitale è inferiore, diciamo, in quello che dovrebbe essere una proporzione corretta all'attività che svolgono e quindi soffrono di più, hanno meno fieno in cascina, mettiamola così. A questo punto le soluzioni che noi intravediamo, di cui spesso discutiamo, sono sostanzialmente due: un diverso rapporto tra banca e impresa sul territorio, e parliamo appunto di piccole e medie e di banche che tornassero sul territorio, e dall'altra parte anche, per quello che concerne le sole imprese, le aggregazioni. E quindi attenzione, l'unione fa la forza, ma soprattutto in questo caso l'unione fa la sopravvivenza. Il primo punto, banche e imprese. Certo, la crisi purtroppo avverrà nei prossimi mesi, quando le banche avranno ricevuto i bilanci del 2009 dalle imprese. Bilanci che purtroppo saranno in molti casi negativi, e quindi col problema ci sarà un downgrading del rating e quindi una riduzione dei fidi. Questo quindi un abbassamento della qualità del voto sul debito e un ulteriore abbassamento dei fidi d'impresa. Le aziende già hanno oggi difficoltà di finanziarsi e quindi queste difficoltà aumenteranno. E quindi i fenomeni di decozione, di fallimento si aumenteranno rapidamente. Allora, presidente, facciamo una cosa: ci sono le informazioni per chi è in viaggio e poi cerchiamo di capire le soluzioni, perché è chiaro che la prospettiva che lei disegna è una prospettiva purtroppo che disegnano in molti. Vorrei capire come se ne esce, come sempre. Rapporto banca-impresa, ma anche rapporto impresa-impresa, consolidarsi, fondersi, lo facciamo dopo le informazioni sul traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, continuiamo con la nostra intervista a Piero Gnudi, appunto nella sua qualità anche e soprattutto di consulente di grandi gruppi. Veniamo al rapporto banca-impresa, cioè alle soluzioni. Qui c'è in giro un'idea di comitati, anche piccoli, presenti però nel territorio, perché insomma questo è l'Italia è lunga, Presidente Gnudi, ma è lunga e anche molto diversa, perché tra, parliamo il caso della Lombardia, il distretto e la produzione industriale di Sondrio, che ha segnato un poco, meno 5%, e Bergamo e Brescia, dove si arriva a punte del meno 40% nella meccanica, nell'acciaio, nella meccanica industriale, beh, c'è di mezzo un mondo. Allora, ragionare in maniera troppo generica tra banca e impresa, forse è il caso di avere dei comitati, non so, dei tavoli a livello provinciale, che si ragioni sul dettaglio della crisi, dei numeri, dei settori, delle aziende in difficoltà. Sì, questa crisi io penso colpirà soprattutto il nord e soprattutto le aziende, le regioni a vocazione metalmeccanica. E soprattutto quindi Piemonte, Emilia del Nord, parte di Lombardia e Veneto. Ecco, bisogna che però provincia per provincia, e qui il presidente di Confindustria già ha sollevato il problema, che lei l'ha chiamato tavoli di attenzione, ma di nome ce ne possono trovare tanti, cioè ci vuole dei tavoli in cui si cerchi di tutti, imprenditori, banche ed associazioni, di trovare soluzioni nei vari casi di crisi che dovremo affrontare. E quindi anche lei è d'accordo con l'idea che ci siano dei tavoli molto mirati, molto specifici. Il secondo aspetto che lei sottolineava invece le aggregazioni e la capacità, anche so che il tema è molto delicato e lo vedo al 349-238-6666 dai messaggi, ma la capacità di fare un passo indietro, che vuol dire introdurre un manager o un fondo, diciamo, di private equity dentro l'azienda, o soprattutto secondo lei lasciare che l'azienda venga comprata da chi è più grande, cioè arrivare a delle fusioni che assomigliano però più a delle, diciamo, aggregazioni per incorporazione che a delle fusioni paritetiche. Io credo che purtroppo che di capitali privati che intervengono nelle aziende in questo momento non ce ne sono tanti. Tutto il private equity è un po' paralizzato. L'idea portata avanti dal Ministro dell'Economia di far creare un fondo dedicato alle piccole e medie imprese credo sia da perseguire. Il problema è che bisogna fare presto, se no purtroppo lo strumento diventerà praticabile quando forse l'urgenza è passata. E quindi è il tempo, mi sembra, a questo punto, la variabile indipendente, per usare un linguaggio da economisti, non tanto le scelte e le soluzioni. Su questo si è molto discusso, Presidente Gnudi, della variabile fiscale, e cioè si dice troviamo un effetto, lasciamo stare la curva di Laffer, ma insomma riduciamo la pressione fiscale perché questo riuscirà a liberare risorse. È chiaro che il Ministro Tremonti, con i chiari di luna a cui assistiamo su Grecia, Spagna, Portogallo, e per ora ci fermiamo qui e così ce lo auguriamo, non voglio autodarmi il gufo, i margini sono strettissimi per arrivare a una manovra fiscale. Io credo che in questo momento di bufera dar pensare alle riforme fiscali sia difficile. Certamente il carico fiscale pesa, e pesa soprattutto sul lavoro, e quindi ogni iniziativa fiscale è d'aiuto, però in questo momento in cui le aziende purtroppo non guadagnano, il problema fiscale non è molto sentito. Un ultimo aspetto prima di arrivare agli elementi più di cronaca, stiamo assistendo purtroppo ai primi, speriamo che siano gli unici, ma temo che non sarà così, segnali di multinazionali nel nostro territorio che fanno scelte strategiche secondo loro e hanno intenzione di chiudere interi siti produttivi. Penso all'Alcoa, vedremo come si svilupperà poi la vicenda, c'è l'impegno del governo, penso alla Glaxo Welcam a Verona. Sono casi molto diversi, in un caso sono gli operai di un settore come l'alluminio, in uno stabilimento industriale al 100%, nell'altro caso abbiamo 550 ricercatori in uno stabilimento di eccellenza, e potremmo andare avanti anche su altri casi che riguardano la presenza di multinazionali o di grandi gruppi nel nostro paese. Secondo lei sarà, detto in maniera molto onesta e sincera, inevitabile che le multinazionali compiano delle scelte di questo tipo, e quindi si potrà cercare di tenerle in casa, ma non sarà sempre possibile? Oppure in realtà uno Stato, un po' come il governo tedesco ha fatto con la Opel in questa situazione, in questo ritorno della politica, del ruolo pubblico anche nei settori privati, ha il diritto oltre che il dovere di insistere, di intervenire? Ma io vedo che lo Stato intervenga per la difesa di posti di lavoro, io penso che sia doveroso e fa molto bene a farlo. Dopodiché però bisogna anche ragionare sulla logica delle multinazionali. La crisi colpisce tutto il mondo, colpisce anche queste multinazionali, e quindi il loro primo pensiero è ridurre i costi, e cercano di ridurre quindi gli stabilimenti che ritengono meno produttivi. Io credo che sia una logica che è difficile da combattere. E sugli stipendi dei manager, ieri abbiamo fatto una lunga puntata sul dramma che vivono molti dirigenti d'azienda. Sono 9.000 quelli che hanno perso il lavoro nel 2009, di cui 5.000 nell'industria, 4.000 quasi nei servizi, e sono spesso dirigenti d'azienda che non guadagnano cifre stratosferiche. C'è stata però molta polemica, a mio avviso correttamente, su quelli che sono stati i principi remunerativi, in primo luogo delle banche d'affari che questa crisi l'hanno generata. Sono tornate Goldman, Citigroup, Bank of America a ridistribuire, e ieri era la notizia di UBS, a ridistribuire bonus milionari. Allora, c'è molto populismo e demagogia secondo lei, oppure anche una revisione della differenza tra quanto guadagna il dipendente medio e quanto guadagna il top manager, che è passata dal 1970 era 1,73, nel 2007 era 1,240. Beh, è qualcosa che va cambiato e che verrà cambiato in maniera anche virtuosa da questa crisi. Beh, io penso che un po' di populismo ci sarà sicuramente, però bisogna anche riflettere di quello che è la situazione attuale. In un momento in cui molta gente perde lavoro e quindi ha difficoltà anche ad arrivare a fine mese, capisco che vedere certi tipi di stipendi possa generare una forte irritazione. Quindi ci vuole un senso di responsabilità di tutti per capire che questo è un momento particolare e che quindi è tempo di sacrifici, ma sacrifici devono farli tutti. E quindi anche i manager. Ma lei una soluzione ce l'avrebbe, visto che ha fatto appunto il presidente dell'IRI, è stato in Eni, è presidente dell'Enel, perché è chiaro che se li paghi troppo poco vanno da altre parti. Se però dai questi incentivi solo legati al breve periodo, si creano disastri di breve periodo, perché poi uno pompa il titolo, pompa il gruppo per avere le stock option, e poi quando se ne va ci sono le macerie. Adesso sto esagerando, ma insomma questo è il rischio. E quindi come si fa? Beh, io sono sempre stato contrario agli incentivi di breve periodo e alle stock option legate a tempi, lassi temporali molto corti, perché cambia la logica dell'impresa, si privilegia il profitto a breve termine e si guarda pochissimo al futuro. Ecco, questo è un problema che non guarda solo le banche, ma riguarda tutte le aziende, perché a questo punto il manager ha l'unico problema di soddisfare gli analisti finanziari che gli diano dei buoni giudizi in modo che il titolo vada su, e questa è una logica assolutamente sbagliata. I primi ci vanno dati, ma nel lungo periodo, io penso nell'arco del mandato, quantomeno 3 o 4 o 5 anni, non a un anno come è stato fatto purtroppo nel passato. Per concludere la domanda delle domande che arriva anche dai nostri ascoltatori, cioè la sensazione che noi otteniamo conducendo questo programma è che insomma questa crisi abbiamo provato a spiegarla in tutte le sue manifestazioni dinamiche e purtroppo svolgimenti, cioè dalla parte finanziaria alla parte economica e poi purtroppo, come temevamo, alla parte occupazionale. C'è però una sensazione, a mio avviso, nell'opinione pubblica di non aver ben compreso come mai, la dico in maniera un po' brutale, le follie di una finanza derivata e anche un po' deviata di Wall Street, della City, delle grandi piazze finanziarie, e quindi l'esposizione assurda a rischi che poi si sono rivelati in qualche caso fatali per citare Tremonti, abbia però bloccato il sistema economico mondiale, come se diciamo tutti fossero dipendenti dalla finanza derivata o strutturata. Non l'abbia bloccato per qualche mese in modo che con un po' di cassa integrazione, un po' di riserve, un po' di accantonamenti riesce a sopravvivere, l'abbia bloccato per un anno e mezzo. Cioè, stiamo ragionando che anche il 2010 sarà un anno difficilissimo per l'occupazione. Possibile, chiedono molti, che tutto tragga origine da questi subprime, dagli strumenti derivati, dalla leva, dalle vendite allo scoperto? Beh, i subprime hanno fatto l'effetto di quello che accende il fiammifero in una camera piena di gas. In realtà il problema è molto più profondo, cioè in questi anni c'è stata una forte crescita di capacità produttiva, c'è stato anche un aumento di ricchezza, ma non c'è stato un uguale allargamento della base sociale, cioè la piramide sociale nel mondo si è ristretta, quindi non c'è stato allargamento della base dei consumatori. cosa è stato fatto? Sono stati drogati i consumatori, cioè si è dato tanto credito a tutti i consumatori. Quando il consumatore non ha più preso credito e quindi questo meccanismo si è rotto in tutto il mondo. E quindi questa crisi, per essere superata, deve essere superata con un allargamento della base sociale, che è purtroppo un fenomeno che si riesce a ottenere nel lungo periodo, non nel breve periodo. Perché noi in realtà abbiamo visto una divaricazione delle volte della base sociale, o meglio dire da piramide a clessidra, sì. Dicono alcuni sociologi, con la scomparsa della classe media. Mi sembra di capire che lei potrebbe essere d'accordo con chi sostiene che addirittura l'intero impianto della Reagan Economics e della grande ondata, diciamo, di privatizzazione e liberalizzazione degli anni Ottanta e di diminuzione del carico fiscale fu possibile per evitare appunto morte di piazza, perché si chiese alle banche di in qualche modo surrogare quello che era prima il ruolo dello Stato. Cioè, se tu riduci quello che è il welfare, riduci quello che è il sistema sociale, o hai le rivolte in piazza, oppure chiede alle banche di svolgere un compito dando credito sostanzialmente, e quindi credito anche improprio, e tieni buoni i consumi. Il problema è che questo meccanismo salta nel momento in cui tu hai concesso alle banche di fare come controparte quello che volevano, e poi a un certo momento qualcuno dice che il re è nudo. Ma questo non è successo solo in America, purtroppo. Il problema che io accennavo prima è un problema mondiale, perché anche negli stati che hanno raggiunto adesso le decenti livelli di benessere, e questo fenomeno si è verificato, penso alla Russia, alla Cina, cioè il benessere non è stato diffuso e quindi la platea dei consumatori non si è allargata. Quindi il problema non è stato tanto politico, certamente c'era stata anche qualche ragione politica, ma è stato proprio un rapporto capacità produttiva e capacità di consumo. E quindi si è mantenuto il potere d'acquisto in maniera, diciamo, drogato, fittizio, cioè attraverso il credito. Okay. E quindi è da lì poi lo scoppio della bolla. Grazie anche per questa spiegazione al presidente dell'Enel, Piero Gnudi. Grazie a te. E adesso è veramente tutto per questa puntata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.